persona. Ho visto il controllo. No, domani devo andare. Domani c'è appuntamento, oggi è chiuso. Domani mi faccio tagliare i capelli e poi mi faccio fare la barba blu. Napoli viene già a casa a Costa. Non si può. Troppo monotona la giornata diventa, capito? Quando vai al lavoro, spesi un po', poi te ne rientri e sei a cavallo. Mamma mia. Mamma mia come sto, è un casino. No, vabbè, mettevo a fare qualcosa a casa, ma salivo sui mansarda, a mettere a posto due fesserie, capito? Ho messo le carrucole su, perché devo fare dei lavori, so qualcosa già me l'ho fatta, però non è, è sempre poco, mi costa. Troppo lunga la giornata. Perché la mattina passa in fretta, mi capite? Arrivi a casa, mangi un riposino, poi arrivi con un po' di yoga, finta alle 7, 7:30, e poi nuovamente porto il cane, ceno, e insomma, la giornata finisce lì. Speriamo la visione in casini, se non sei il suo gatto che mi ha attorato, che mi atterra. Allora, io quando sono andato via era tutto in ordine. Speriamo una gatta bordello, se no mi curo a terra e mi occupa molto. Allora, certo, perché quando iniziamo a fare così, già un mese e mezzo, no? E quelli che ce la prendono molto alla leggera, e poi se la cosa si ammutoneggia, che già ne ho sentito un altro giorno, guarda, qui, là, non ce la faccio, non ce l'ho fatta fare quello, non ce l'ho fatta fare quell'altro, tanto quello dove c'è quello ci fa di tutto, quello chissà qua cosa, infatti, speriamo che sia tutto in ordine come ho lasciato, e se c'è qualcosa da fare ci fa, ma che non sia troppa parola, allora, se è troppa inizia a essere pesante la cosa, capito? Piano piano, stiamo prendendo di Zagina. Vabbè, quindi sei andato al produttore già adesso? E già andava. Sono uscito stamattina alle 4, alle 6. E allora, in linea di massima ci siamo. Ho capito questo. Non so, si sfasa un po', sono già le 6, sono già 12 ore pure, non bisogna mettere. E uscire erano contenti tutti, no? Così non finì mai, capito? Vabbè, la brandina gli avvirai, un camion, quindi dromi, magni chivi. Ah, ecco, bello. Perché anche lui ci ha fatto l'unito. Allora, dice cosa rientro a fare, andando e tornando, ho fatto i chivi. Natali lo senti a Costanzo, lo straniero, no? No, ragazzi, il problema è che uscivo in scioscio, Natali, e lui ti sente però nella camionale, in movimento, lui ti sente e tu non senti. Avevamo un problema, chi si antenna, boh, sembra in mezzo giorno a me. No, che l'antenna non è stessa, perché sono io del provvicolo, e non è sulla capota della macchina, però quell'antenna è una bella. Costanzo, ti senti Santiago 1 come ti sentiva Franco a Sorso? Santiago 1 e la radio è abbastanza comprensibile, solo che tu non lo senti a lui, capito? Dobbiamo fare qualche modifica. No, bisogna la comunicare con l'antenna, la non è tuo il problema, è il suo, non ti preoccupare. Lui c'è l'antenna esterna, però è bassa vicino alla finestra, capito? E le fa un po' di QRM e quindi per quello che non ti sente. Ora uscire già esce qua, è più di 9. Va bene. Sì, Natali, quello è il discorso da fare. L'antenna vuole andare a gambe tu, è buco. Poi non capisco questo stazionario che ha. Cosa hai detto Costa? Hai fatto che c'è in movimento? Vabbè. Tu sei anche in movimento. No, ma è proprio un problema di risonanza, capito? È troppo chiusa per la ricezione. In trasmissione già va. Ciao Costa, ciao. Vai Natali, saluta Costanzo, già ti sente. Ciao Costa, non ti posso dire che ti sento perché non ti sento. Ciao Costa, non c'è problema, è importante che ti senta lui. Capito? Quello è già una cosa buona, perché ho visto che già arrivi a Sorso, arrivi a vedi così in movimento. Beh, facciamo quegli accorgimenti che servono, poi vedi come ti esci da chili. Attento Marco. Franco deve chiedere la patente. Lui dovrebbe vedere meglio della madre. andare a fare la denuncia. Se no trovano di girare con questa denuncia, non so se no, quando sia valida, blu, se no devi rifare tutto, devi fare duplicata. Io ho dei dubbi, magazzino, mamma mia. Ma lui, uscì, andare a motorizzazione, cosa rete, eh? Chiudono alle 11, ma c'è il mondo, c'è un po' di gente, l'hai capito, e lui a fare la fila non è molto propenso. E quello lì sono girati i pipistri, perché lui pazienza non ne ha, deve fare tutte queste cose alla mamma, quindi è facile immaginare già di tutto. Gianni si riposa, arriva alle 3 a casa, arriva alle 3 a casa, capito? Portare il cane, preparare a mangiare il cane, deve mangiare, poi si riposa. E quando la moglie lavora, sì, capito? Lo lascia pronto pure se per preparare lui. Quindi è un casino. Infatti anche io quando ci sono le due che hanno fatto il cantante ero da solo, me lo dovevo preparare io e mangiare, è stato lanciato. Ma quando si lavora in due non fai usci, quindi dava. Bisogna, poi il cane è un grande impegno. Poi ieri infatti vi ho detto, se non c'è proprio la necessità, la sede appetito di cane, perché io non le volevo più. Purtroppo è arrivato, me l'ha portato piccolino e c'era del fumetto, quindi me lo sono tenuto, però è un grande impegno, un impegno grande. Così fai l'aria, capito? Non ti preoccupare, papà, già me l'angio io, sì. Pochissime volte lo porta, quando è libera, perché c'ha degli orari particolari, capito? Il cane uscire presto, lei quando, per esempio, la mattina non ci va presto, va sempre a mezzogiorno, 11:30, eccetera, quindi si alza un po' più tardi, capito? Non c'ha orari fissi lì. Perciò è un casino, sempre va portato presto, la sera massimo alle 7, 7 e mezza, dopo che cena, anzi è un cane poverino che non è di quelli che ha disesi, si bianca la iana e poi sci, capite? Ha il tempo di riposare, 2, 8 e mezza, 9, prima di quell'ora non esce. Valeu. ti dica, ah, Torino c'è, ma non ti accoppia, non ti accoppia. E chi è, chi è? No, non è entrato ancora, pipistrello. Non è entrato. Ma vedi, io è davvero un Atari. Sì, è come faccio a arrivarci con questa antenna. La vigia, l'antenna, spieghiamo l'antenna. Di questo già, adesso dobbiamo ascoltare, ma adesso è possibile. Questa antenna già, già mi sentite, non ti preoccupare. Già mi sentite. E comunque vedi, arrivi a Franco, passo ma arrivi, ecco tanto ti ha sentito nella camionale, il miglioramento l'abbiamo fatto, qua sei in nove abbondante, dentro sassa ricopri tutto, il miglioramento l'abbiamo fatto, adesso fammi rientrare, poi vediamo, se la gente mi muove l'antenna, però devi decidere cosa mettere, mi Natale. O metti quella, come si chiama, quella energy, qualcosa del genere bisogna mettere, capito? Leggera, e si tira su. E Giuseppe, Giuseppe, Valeria, non si è sentito lì ad Alghero? No, non ci sto mai in ascolto sul 15. Sul 10, 5 e 20 sempre in ascolto. Basta. E se no ci vogliono 4 radio ci vogliono. Gappa. Cosa stavo dicendo? Un'altra cosa, non mi ricordo. Ah vabbè, usa il magno, scusa, perché lo tieni in spento. Invece di usare il 140, usa il magno ogni tanto. Ma lo fai andare, già arrivi abbastanza bene anche con quello. C'è le tegole su, però non può manco salire, dobbiamo lavorare in facciata lì. E se no qui se no avremmo già fatto. Dobbiamo lavorare in facciata, c'è un lavoraccio da fare lì. Dobbiamo andare a fare sopralluogo. Ma quanto mi ha detto lui, è un lavoro molto particolare, quindi dobbiamo lavorare in facciata. Sul tetto non abbiamo accesso. E io già ti ho capito, c'è il tello, carrello. Ma staffo, metto due staffe di quella. Tassello, metto un telescopico e tiro su, capito? Già, vediamo adesso, insomma, poi diventa lavoro, vediamo cosa c'è disponibile, che scala c'è disponibile, e lo facciamo e ce la mettiamo tutto a posto. Abbiamo un problema, cosa ci vede Natalini? Bene, diciamo, porta a posto, dai. Tutto a posto, ho messo. Mamma mia, per ultimo. Hai visto? Non c'è tutto in ordine. Grande la televisione. No, è piccolina, 22 pollici. Ah, 22. Gamba. Va bene. Per andare. Se lo spazio è quello, cosa vi mette? Non è proprio il trasatlantico continuo. Se no, addio. Come cristiani quella senza radiali, non ci piace. Esatto, quella lì. Anda meglio di chissà cagata. Io fare quello pubblico già ce l'ho, ma se è solo. Beh, non bisogna mettere le sementi. Questo basta che esca la punta, quelle radia verticalmente, basta che esca la punta. uffici vai a 9.15, per quello ti sente basso Natalino. Ma la giocchio vai Sant'Ennaio. Come c'è il piede mollato già? E c'era un po' di vento oggi, leggero, ma c'era, capito? E magari l'ha mosso. Go. Stato lì. Te lo sto dicendo. Io stamattina, che era mezza giorno e mezza, sono uscito in moto con quella piccolina. Sono andato per 13 di settimana, non posso più in moto. Ho preso e ho lasciato la Roma. Sicuramente c'è il filtro della, come la uso poco, c'è il filtro della, della benzina matta in casata. La mano lo smonta, pulisce tutto. Poi tieni in mira, arrangiati. Sono venuto scendo da qui a casa. Capito? Ho preso le segne, con un po' di formaggio, un po' di roba che ci serviva. E sono dovuto fare la periche. La mazza ne è arrivata la moto. Io la mamma, le serve, 50, era buonasera, ben ascoltato. Oh, è quello che sto facendo lavori. Ma il depuratore si è andato. Ma no, metto un coreale. Ah, su si è andato. E la Sigeli c'è, sto facendo dei lavori. Sto controllando, Gianni, lo sto monitorando. però già, non so se c'è qualcosa che non anda. Il segnale è leggermente più basso del solito. Quello dell'altra volta o quello che avevi cambiato? Perché l'altra volta hai cambiato e stavi andando bene. Ma poi stai... Ehi! Si scala, scusa, non è che niente di... Ecco, allora fa una cosa, metti il... qual è quello che usi veicolare? Magno. Prova a mettere il magno, ma per passando la sua domanda dell'acqua natalino. Ciao Sha, anche da te arriva basso, vedi? Vedi già, il Galaxy c'ha qualche problema, non lo so già, quando attacchi il Galaxy qua perdi 5 dB, non so cuba cosa, prova a attaccare il magnum a vedere. Anche l'altro giorno stavo usando quella, l'antenna invece non era l'antenna, era la radio. 5 dB mi perde qua. C'ho segnale 9,20 con picchia 25 e qua mi fa 9,10 con picchia a 9,15. Adesso Sandro ti ha confermato che praticamente al produttore ti è arrivato Santiago 7, che non è il tuo segnale, quindi sta cambiando. Lo senti a Natalino, sa? Già, c'ha problemi col Galaxy, c'ha problemi, 9,25 sì. Guarda, c'era Sandro, ti ha dato Santiago 7, vai Sandro adesso, vai da Sandro a vedere se il tuo segnale adesso. Ma questo qua esce con 20 watt, non ho capito. Non lo so, l'altro giorno hai cambiato baracchino, così hai messo il Cobra, non lo so. A me quando attacchi il Galaxy, radio bellissima, tutto a posto, però mi perdi 5 dB, non so perché. Sandro, guarda adesso col Magno. Ehi Gianni, ciao. Santiago 9 a quasi a 9,5 modulati. Controllo un attimino perché già può essere. Ma quando poco fa hai parlato col Galaxy, ti ha dato Santiago 7, a prescindere che abbia 20 watt, quello là ne ha 10, ma non c'è tutta questa differenza. Sì, ma Claudio, se quello là sta uscendo a 10 watt e mi arriva a 7, questo esce a 20 watt e mi arriva a 9,95 modulati, insomma, non è un po' di differenza, c'è, però c'è, secondo me c'è qualcosa che non va. Se non arriva da Natalino, gli arriva a Santiago 5 a Natalino, altro Sassari. Non so che dirlo. Vabbè, comunque c'è questo qua, adesso va bene così, scaldiamo questo qua un po' prima di scendere. E da voi, vedi tu, sai? Che vuoi a dire? E beh, Sha, sta a posto. Quello che ha posto, vai. Quello che ha posto, il resto vediamo di metterlo a posto. Non vedi oggi, sempre Olbia? Negativo, oggi casseggio. Castello, missione, baffi chilometri, via, andava. Fai Natalino, vai. Non ti sente Sandro, non ti sente, che miseria, hai visto, ti ha sentito soltanto nella camionale. Vabbè, poi pazienza, ce la mettiamo a posto con l'antenna. Lampa di tutto, Natalì. Ma in me, brumido eri. Buonasera a tutti, mi sono svegliato adesso. Dimmi, ma oggi si prende la patente. La patente? Sì, Natalì mi ha detto che mamma ha perso la patente. Sì, forse solo quello ha perso. Ma... Sì, ha fatto una... c'è smarrimento. Se mangia lì o il cellulare o gli occhiali o la patente o la carta d'identità o il telefonino, basta, basta. Non le scatole piene. Adesso la denuncia di smarrimento dura 15 giorni, quelli devi fare il duplicato, già lo sai. Ma tanto non sta guidando, cosa? Tanto non guida. Allora se non guida tutti i dini. Deia, però sai, deve fare sempre. La denuncia la deve fare, sia che finisca in mani. Comunque, no, non parte di scherzi, sicuramente l'ha presa in casa, finita dietro qualche mobile da qualche parte. Non credo l'abbia persa fuori. Tutte le cose l'ha sempre presa in casa. Come fa a vedere la patente? Solitamente non la tiene dentro la borsetta, dentro una donna la tiene dentro la borsetta, come fa a perdere? Già lei il caos, lei è il caos fatta persona, non puoi capire. Stamattina ero incazzato nero a Natalina, infatti poi mi sono calmato Natalina, poi mi passa, capito? Questa è, c'ho anche un cerchio alla testa, c'era un freddo in casa. Mi sono messo un po' di calore, calorifero, più la coperta. Non è che abbia proprio dormito, è più che altro riposato. Mi sono svegliato tutto suo, ma c'ho un cerchio alla testa, capito? Bene, riprendi già, dai. Oh, un attimo già. Oh, ciao Marco, guarda, se c'hai problemi di capogiri, testa e così via, se vuoi venire ti porto con me un mattino, ti porto dentro una fuma, una vasca. Ti butto dentro sta vasca, ti fai massaggi e poi a parte i profumi e esci, guarda, nuovo nuovo. Deia, la cervicale, lo so già, in base a come metto il cuscino, so anche la lingua è impastata, va bene, che fa male, non va bene. Ma la vasca, quella che ho visto io, quella che conosco io, sa. Eia, sì, quella che conosci tu, ma non quella pulita, quella un po' sporca, quella dove c'è un bello strato di sostanza. Che sono le schiume belle chiare, no? Vabbè, ma lui le regoliamo anche l'ossigeno, quindi facciamo più bolle. Al suo desiderio, guarda, quello con le bolle, senza bolle, con cloro, con l'additivo, come vuole lui. Gli attirava lungo la somma, via, va bene. Avanti Natalì, mica è entrato Marco, visto che è già entrato. Io l'ho chiamato per cosa di quella di là. Dimmi, marca modello. È il Proxer, quello di 35 ampere, quello grosso, io ce l'ho 60-55 NFA, 60, io ce l'ho 60-55 NFA ed è favoloso. Anche io ce l'ho quello, 60-55 NFA. Vanno bene, lui invece ha preso il 35, capito, 55 NFA, capito? E va bene lo stesso, 35 ampere, quello che ho io è 60. Quanto? La tua sigla com'è? 60 o 50? 60, 55. Ed è 50 ampere? No, 50 ampere, vabbè. 60, 55 NFA, 50 ampere. E noi roba attaccata. L'ho sfruttato anche davanti io, figurati. Anche quello lì davanti. Solo accendi sigari è libero, capito? Dietro ce n'è tre di radio attaccato, davanti ce n'è altre due, solo accendi sigari c'è, boh. No, io ho fatto solo un momento, cioè lo strumento è per una farà, per il mare, per il bagno, proprio poi ne ho uno per il bagno. 4.50, sul 4.30 c'è il PS 4.30, basta, ma quello lì 50 per mi serve per alimentare le HF, capite? Le HF, i due gemellini che hanno 100 watt in VNU, quindi quelle radio grosse là, però i cable che ce li ho con gli alimentatori sui di linea. Io ho l'alimentatore, la colonnina, tutto grigio, no? Capito? Tutta la linea completa, cioè sia il 430 che il 440, accordatore esterno con l'osmetro, l'attimetro, accordatore per quanto riguarda il 430, infatti 230, mentre invece il 440 c'ha l'accordatore su automatico, quindi anche se è sempre staccato io non lo uso, ci sono stazionali a zero, quindi così la devo trattare l'accordatore. Però le linee sono quelle, non è che la puoi cambiare, non ha vita, così è. Va bene, va bene, no, io ho un cattore davanti, non io, ma a parte questi di linea che non il PS, il coso, il Fox è dietro, no? Marco. Eia. Allora, questo modello che ho io ha un solo strumento e puoi selezionare ampere o volt, però non riesco a vedere, è sempre Broxel il modello. Ah, ecco, 832NFAR. 832NFAR, poi c'è invece il modello superiore, questo ha di buono che è piatto, capito, è piatto, e ci sta proprio nel ripiano qui di questo mini tavolino che ho. L'altro più grande è l'855 mi pare, NFAR, che è da 55 A, capito? È tipo il vostro, però è più piatto, a me veniva meglio questo, dai, come dimensioni. Allora, gli alimentatori non vanno mai messi davanti a baracchini, davanti a niente, gli alimentatori vanno sempre tutti da mezzettini. Capito? Creano sempre problemi, alternate, al vento, le ventoline, io ce li ho da un'altra parte. C'è un piano a parte dietro, dove intanto sono sempre alimentati. Io non faccio altro che tirare su il salvavita, però vabbè, io ho un impianto proprio la sala radio. Voi siete così messi uno vicino all'altro, le cose. E io tiro su il salvavita e si accendono gli alimentatori. Capito? E quindi sono lontano. Ma cosa ne fai? A fare che cosa? A fare linea di cosa? A Gianni piace l'alimentatore che faccia la stazione, no? Cioè che figuri nella stazione, in modo da avere sott'occhio tutto, volta, ampere. Non lo vuole messo dietro, nascosto, lo vuole a portata di mano. E in vista, è anche bello da vedere quando è acceso. Io so. Pigliare il culo. Ciao Valerio, no, io il volumetro, l'amperometro già livello, perché già livello il volumetro, l'amperometro, no, non mi interessa, so dove mettere un alimentatore davanti a una HF, in mezzo a una HF a fagocia, se no voglio lungo di nulla. E beh, Valerione, ecco, ti arriva più forte Marco di Gianni a te. Ammazza che te ne vale, a te mangiare, c'è un pistante nella 4 show di Gianni. Bisogna vedere quanto impatto c'è usato, io adesso sono con Clara. Ma con Clara ci sto detto che tu, guarda, Marco, guarda il segnale di Gianni, a noi mi sta arrivando 5 dB in meno quando attacca il Galaxy. 3009 omologato. Scusando. A pigliare il culo. Il lineare l'avevo attaccato ieri, oggi l'ho già attaccato, perché no? Vale, non voglio solo più a loro. Ah, vale, perché abbiamo parlato in due, quindi senti solo a me. ho detto Marco rilassati, guarda il segnale di Gianni, quanto ti sta arrivando Gianni rispetto alle altre volte, a me mi è calato di 5 dB col Galaxy, quando attacca invece il Magnum torna normale. Boh, Gianni prova, io con questo Smith non me ne accorgo, dai, prova già. Sì, non te l'ho chiesto perché lo sapevo che risponde più di te. Riprende quando riprendo io. Ma io sento a te perché tu arrivi molto più forte, sei 35 tu, Gianni è 20, figurati. Ho detto Gianni. Ehi. Tu mi arrivi grosso modo uguale, non vedo assolutamente grosse variazioni, no, a questo Smith non ne vedo. Adesso si è attaccato già. Ehi. Qua, anche attaccato 5 dB in meno. Ma lei, io cosa ti arrivo attaccato adesso? Fidati zio Claudio, io ho i segnali stampati negli occhi, sei 5 dB meno col Galaxy e non stai neanche saturando, vuol dire che quella radio sta dando pochi watt. No, infatti c'è il watt, ma cazzo non lo vedo, c'è una watt, i watt che sta dando sono sempre gli stessi. Non lo so, qua sei calato di 5 dB col Galaxy già, 5 dB, perché quando attacchi il Magnum, a prescindere che abbia 20 watt e quello là ne hai, quanti watt deve dare il Galaxy? 10 watt. Vedo 9, vedo 9 in AM e 21 in banda nazionale. Sta dando 9 watt adesso. Ah. Ormai c'è qualche problema nell'antenna, non so cosa dirti. Sì, molto più basso rispetto a prima, ma te l'ha detto anche Sandro. È natalino, addirittura a Giumeno, ti intendi? Molto strano, Valeria ti ha detto la stessa cosa, lascia perdere a Marco che è quel baracchino, è sempre tutta manetta, con lo scala. Vabbè, natalino non ce l'ha praticamente perché l'antenna non ce l'ha, ma non ho capito, è la suggestione del natalino che ci ha fatto. Ma io non sto usando l'antenna già natalino, la radio natalino. Io sono col 440, il tuo segnale qua è 9,25, sempre, da sempre, 9,25, quando attacchi vai a 9,30, ok? Mentre adesso sei 9,10 con picchi a 9 più 15. Sì, vabbè. Non so cosa magari anche quel corpo del maestrale, secondo me, c'è il piede mollato, non lo so. L'altra volta era umido e infatti ti segnava stazionario, adesso è asciutto, però è da scendere con l'antenna e controllare. Secondo me è poi, non lo so, vabbè. Mando alle ciance, natalino viene avanti, viene avanti. No, no, allora non andare avanti, che di fianco, cammina di fianco. E su alle 8:20 sono, minchia, è passata anche la serata. Stasera ho portato ieri una bottiglietta, ma di quelle di Ace, succo di frutta piena, polpa di ricci. Stanotte mi dai alle 8:30 mo la tutto via a casa. Stanotte basta con i ricci. No. Escono anche due bruschette, prima due bruschette come antipasto e poi una bella pasta di ricci. Bella, io la faccio alla fine del mondo. Bella. Però mi ha detto non toccare niente, la faccio io. Va bene, non tocchese. Allora, vabbè. E cosa ci vuoi fare? Ui. Adesso vai a dire, presto, passare via San Francesco a ritirare la posta che ancora sta arrivando lì, che ancora non si decide a fare la risvetta, è già da questo. quest'inverno che abbiamo venduto lì, ancora arriverà qualche archivi, ma ogni volta ci devo andare. Un sacco di cose a fare Valentina, speriamo che non piova, mi tocca prendere l'altra moto. Ci avevo lo scooterino, no? A piedi, ma da gara. Lo sapete già, vi dico, io mi preparo e porto il cane, salotto, me lo vedi. A dopo signori, statemi bene, momentaneamente qui Rich per me. Ciao, a dopo. Buona passeggiata. Ehi Claudio, là, buona passeggiata col cane. Di Eugenio cosa si sa? L'aveva piazzata l'antenna? Cosa Marco? Come te la dice? E se Eugenio l'aveva piazzata l'antenna sul furgone, se sai niente? No, perché l'avevo avvicinato al mio oggi, ma alle 5 ci avevo la visita di controllo per rientrare mercoledì. Mi sono dimenticato, aspettiamo a fine settimana che la piazza assieme a Massimiliano, che la vuole vedere lui, capito come montata. Ah, ok, va bene. Ehi, riprendi Gianni? Io, vabbè che qua siamo vicini, questo Smitter poi è... Però, caspita, da arrivare addirittura a 9... così basso la Claudio, a me non cambia nulla, mi pare strano. Vabbè, poi vediamo un po'. Dimmi Gigi, è perché stai chiudendo, cosa c'hai? Ah, perché stai chiudendo, non ti puoi trattare 10 minuti con loro, io sono a portare il cane. Ah, era in ruota lui, non me l'avete detto. No, non c'era in ruota, cos'è in ruota? Ah, lì tu sta chiudendo. Genio! Ciao, buonasera. No, io stavo a portare il cane, dai. C'è Marco, Gianni, Valerio Valghero, Natalino. Va bene, dai, ti lascio loro compagnia. A dopo, signori. Ehi, Claudio. Ebbene, Eugenio, ne hai trovate alternative? Ehi, strano. E qua a Sassari, vabbè, siamo in pochi. Qualcosa la vendono sempre, però appunto bisogna trovare una cosa adatta che esca bene. Ui. Comunque a te, a parte che usciva a cuppo, il DM1000 usciva a cuppo anche sull'XL, no, sul 40%, però non ti fischiava in camper, così è. Ah ecco, ma il parla ascolta di cosa? Del baracchino o del microfono? Perché quello del microfono va messo a zero assolutamente, cioè possibilmente va messo a zero, io l'ho messo subito a zero, subito, appena comprato. E invece l'amplificazione mia è a manetta, capito? Ah, no, da me non c'era niente da fare. Da me la macchina fischiava di brutto. Ma anche abbassando l'amplificazione, abbassando il mic gain, fischiava. Anche a zero fischiava. Anche abbassando il microfono, l'amplificazione interna fischiava. Non c'era nulla da fare, capito? Spero che non lo faccia anche a te. Conta che io ho sempre base magnetica. Magari è per quello. Insomma, bisogna fare prove, eccetera. Che prendi Gianni? Ciao già, forse di portare anche il cane. Aspetta, io ho perso la cognizione del tempo oggi. Voi non lo sapete, no, che ieri notte il gatto è caduto dalla finestra, era nella corbuletta, caduto dalla finestra, uno delle due gatte, quella più snella. Mamma alle 4 di notte si è svegliata per andare in bagno, ha trovato per terra fuori dalla finestra la corbura, il gatto sparito. Quindi abbiamo anche quella setatura lì, che ci è sparito un gatto. fighi, però non lo so, non mi ispira niente di buono. Chissà dove si è infilato e se riuscirà a trovare la strada del ritorno. Non lo so, speriamo che torni, perché sennò io l'ho pianto già due volte quel gatto. E poi è sempre tornato da quei giardini interni, però sai, una cosa è il giardino interno, una cosa è finire in strada. Ok, ciao Gianni, dai. Natalino, riprendi per i saluti. Ciao Marco, ciao Tatiana. Marco, il gatto non si è fatto nulla, sicuramente si è saltato la linea. Il mio gatto è caduto al terzo piano, invece si è salvato, quindi immagino è caduto anche su una macchina, tra l'altro. E a parte il fatto che era dietro la lacrima, la lacrima va sempre, perché era una vita come ha preso il corpo, però per il resto non ci ha avuto niente, non ha fatto la gamba. Qua, guarda, era già caduta dalla corbuletta, perché mamma, cioè, per fissare quella corbula non basta una pietrolina per fare peso, capito? Si è sbilanciata la corbula, quella, la corbula, la cuccetta, come la vuoi chiamare, è morbida, morbida, no? E quindi alle 4 di notte mamma ha visto giù, sì, è bassissimo, qua non si fa niente al gatto, solo che lei spaventata chissà dove è andata a nascondersi, e se riesce a trovare la strada del ritorno anche quella mi preoccupa. E vabbè, si vedrà, sempre una preoccupazione sono gli animali intanto. Va bene, ci è rimasta quella grassoccia, quella più lungo. Vediamo, dai, abbiamo messo la foto con il numero di telefono, abbiamo messo vari volantini attaccati al palo, vediamo se qualcuno sa darci almeno delle notizie. Ok, riprendi Eugenio, saluta Gianni che sta per chiudere, dai. vabbè, però noi siamo troppo affezionati. Professionati ai gatti, mannaggia, non ci voleva, dai, tutto perché qualcuna ha la mania di lasciare le finestre aperte fino a notte tardi, e siccome ieri notte mi sono addormentato prima del tempo, anche lei si è addormentata, questa finestra è rimasta aperta fino a tardi, e il gatto lì è caduto insomma dalla corbula, o meglio è caduto il corbula e tutto, scusate mi è venuto un rutto, non ve l'ho fatto sentire, invece bastava chiudere prima, ma vado a sapere, dai, una fatalità è stata, dai, me l'aspettavo che lo dicessi. Beh, io lo darei, per il gatto lo darei sicuramente, lo sai come riscatto, e anche due ne do, anche tre, il gatto è più importante dei baracchini, i baracchini sono delle cose inanimate, ma il gatto ha un'anima, capito? Natalina non dice niente, lui che ha gli animali non si pronuncia. Oh, è sparita per 4 giorni ed è ritornata, cioè ha trovato la strada. Aspetta, dopo 4 giorni, beh, questo mi dà un po' di speranza. La nostra è sterilizzata, quindi non ci sono sorprese che torni incinta, è sterilizzata. Quindi anche se va a farsi un ciupicciù con un gattino, con un gattone, non c'è pericolo, dai. Invece la mia non era sterilizzata, meno male che non era in calore, se non me l'ha fermata. Sarebbe tornata incinta. Bene, io devo mangiare, signori, dai. Vabbè, non ancora, fra poco, dai. Thank you. sapersi, dai, buono a sapersi. Questa notte mettiamo qualcosina da mangiare sotto la macchina, così l'odore si diffonde e magari si avvicina in zona. Questa gatta ce l'ha sempre avuta la mania di andare in giro, appena può andava nei giardinetti qua all'interno, però la strada è più pericolosa perché la posso investire, tocchiamo ferro, ci sono mille pericoli, può mangiare roba che le fa male, speriamo di no, dai, speriamo che torni, dai. Nulla. E poi, anche se la chiami, fa l'orecchio da mercante, capito? Fa finta di non sentire. Ma vabbè, dai. Che ore sono, Natalia? C'erano orologi? Natalino, lo senti Eugenio? Perché è bassissimo da te. No, non ho niente da fare Eugenio, cos'è questo rumore? Non ne capisco nulla. Adesso sento anche i rumori, mi. Andiamo bene. Ma lei si è fumato qualcosa di strano stamattina? Omaggio. No, magari. Ehi, Antalì, tu sì che sei. Guarda, se trovi le arance una belle, sono buone. Ok. Ciao Eugenio, dai. Adesso mi stiamo tra poco mangiamo. Ciao Eugenio, ci sentiamo. Buon quaretti, dai. Credo che oggi avessi già installato l'antenna, invece ha detto Claudio che non. Buon, non ho capito. Che era impegnato Claudio, una cosa del genere, dai. Ma il buco lo devi fare tu, così è. E perché deve essere bello centrato, mi, perché se poco di lato si vede l'antenna, insomma, non bella centrata sulla capozza, dai. Ma penso lo sappia fare, no? Ma sai, devi pigliare le misure in modo che sia perfettamente al centro, non troppo a sinistra, non troppo a destra, no? Ok. Vabbè, è anche più facile così, dai. Va bene. Mirgolando sta, mi quell'altra. Ha sempre fame quel gatto, mamma mia. Sta ingrassando troppo. Fra un po' a Pasqua, mi, ce lo facciamo come l'agnello, mi, al forno ce lo facciamo. Eia. Ehi, un po' ingrassato sta quell'altra gatta. Perché mentre quella adesso non c'è, no? È bella snella, ma bella muscolosa, cioè è snella ma tonica, no? Non è magra. Questa è proprio grassoccia, mi. È bella teccia, mi. Quella davvero, quando uno ha fame in tempi di guerra, se la sarebbe tutta mangiata. Se la vedono quei morti di fame che arrivano dall'Africa e se la mangiano. Tanto quelli sono musulmani, loro il maiale non lo mangiano, però tutto il resto si lo mangiano, pure i gatti. potrei mai mangiarla, a parte gli scherzi, non le potrei mai mangiare. È come se mangiassi un mio parente, capito? Allora i parenti buoni da mangiare. Che i suoi parenti se li sarebbe mangiati tutti. E beh, buono era almeno. E cosa è? Simile al coniglio come sapore? Oggi mi è arrivata la pappa, quindi in realtà ci sto chiudendo anch'io, dai. Ci sentiamo domani. Spero di entrare prima e di ritrovare anche il gatto. E oggi ho veramente dormito, c'era un freddo, non so perché, sentivo freddo, molto freddo. Ho calata davvero la temperatura. Secondo te è calata la temperatura? Sì. Natali. Poi beccati altre cose da mangiare. Ehi, ciao Natali, buonanotte, dai. Questo per me è il pranzo, pensa. Questo è il pranzo per me. Buonasera, buonasera. Buona cena, buona cena a tutte e due.